Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América. La voce che porta la libera informazione a Cuba esce da un anonimo prefabbricato che si trova nella periferia nord-ovest di Miami, nella zona del Palmetto. Nessuna insegna, un poliziotto armato all'ingresso che controlla i documenti, nessuna possibilità di riprendere all'interno di questa stazione radiofonica appartenente al governo federale americano, come Voice of America, Radio Free Europe, Radio Free Asia, Radio Middle East Asia. Washington, pur di contrastare la propaganda castrista, spende ogni anno 30 milioni di dollari. Tanto costa finanziare Radio Martì e i suoi 149 dipendenti. A volerla, per procacciarsi il voto del milione di persone che compongono la comunità cubana di Miami in vista delle allora imminenti elezioni presidenziali, fu il presidente Ronald Reagan nel 1983. Pochi mesi dopo cominciarono le trasmissioni, esattamente il 20 maggio del 1985, un giorno importante per l'isola caraibica. In quella data, infatti, si celebra l'anniversario dell'indipendenza di Cuba e la radio non poteva che prendere il nome di José Martí, poeta, scrittore, ma soprattutto simbolo della lotta per la libertà di Cuba dai colonizzatori spagnoli. Non formerà parte del tema cubano delle priorità della presidenza spagnola della Unione Europea. Denuncian presos políticos cubanos condiciones inhumanas en la cárcel El Guayabo en Isla de Pino. 24 ore di messa in onda, un notiziario ogni mezz'ora, la Mujer y la Noticia dedicato ai problemi delle donne a Cuba, talk show come Primera Plana, Las Noticias como son, condotti da Roberto Bermudez e Margherita Rojo, star di Radio Martí, ma soprattutto un'interrotta battaglia nell'etere combattuta a onde medie corte sui Cayos, gli isolotti disseminati nel braccio di mare dei Caraibi che separano la Florida dall'isola comunista, tra le antenne di Radio Martí e i jammers assoldati da Raúl Castro per bloccare la ricezione dei notiziari mandati in onda dalla stazione radiofonica del governo federale americano. Notiziari capaci di raggiungere l'80% della popolazione, circa 8 milioni di persone, tutte sintonizzate sulle frequenze di Radio Martí. Come spiega il vice direttore della radio, Luis Zuniga, la contraerea radiofonica castrista non riesce a bloccare le notizie che escono dalle antenne posizionate verso il cielo da Northwest Miami. Il governo non permette nessun medio alternativo, incluso bloccherà tutte le trasmissioni internazionali a Cuba. La nostra trasmissione, per esempio, di radio, ellos tienen jammers, tienen equipos para distorsionarla, para obstruir su trasmissione. Para obstruir su transmisión, su recepción en Cuba. Ellos no bloquean los emisores, bloquean a los receptores. Per sapere cosa sta accadendo davvero a Cuba, Radio Martí durante i notiziari indica ai suoi reporter indipendenti i telefoni cellulari dai quali possono chiamare e gli alberghi dove esistono postazioni internet destinate ai turisti, accessibili però anche ai cubani con la compiacenza di usciere e direttore di hotel. Ogni informazione, prima di essere mandata in onda, viene verificata attraverso altri contributi indipendenti per evitare che siano stati agenti del governo castrista a fornirla, depistando così gli ascoltatori, come spiega Zuniga. Nosotros editorialmente analizamos cualquier información que venga de Cuba y necesitamos dos fuentes independientes para poderlo sacar al aire. Entonces, es un poco difícil este tipo de situación, pero el objetivo de nosotros no es ser la primera estación en sacar una noticia. Nosotros no estamos luchando por ser los primeros. Nuestro esfuerzo es ser los seguros. Que cuando nosotros les damos una información al pueblo de Cuba, el pueblo de Cuba está seguro de que eso es verdad. ¿Ma cuál es la eficacia concreta dei programmi di Radio Martí? Attraverso focus group organizzati insieme al Miami Dade College che fornisce assistenza agli esuli cubani che continuano ad arrivare negli Stati Uniti, è stata confermata l'altissima audience di Radio Martí a Cuba, la sua capacità di influenzare realmente i comportamenti della popolazione cubana, di spingerla a reagire per far sorgere la democrazia sull'isola, è garantita invece dalla direttrice di Radio Martí, la 45enne Clara Dominguez. Il sentido es proveer información. Il nostro obiettivo è dare un'informazione bilanciata ed obiettiva di quello che accade veramente a Cuba e nel resto del mondo, affinché chi ascolti possa ricevere notizie veritiere, analizzare i fatti e farsi un'opinione precisa ed attendibile di quanto sta accadendo. Stiamo percependo un concreto desiderio di democrazia, soprattutto tra i giovani che sull'isola hanno voglia di libertà e cambiamento. Il desiderio di libertà e di libera informazione espresso dalla radio voluta da Reagan ha spinto molti intellettuali a fuggire da Cuba per contribuire alla causa, come è accaduto ad Armando De Armas, scrittore e giornalista pubblicato in Italia dalla casa editrice Spirali, conosciuto per il libro I miti dell'antiesilio. De Armas adesso cura il seguitissimo sito internet di Radio Martì, ma prima di approdare in gommone sino alla stazione radiofonica ha dovuto subire le angherie del governo di Fidel Castro. Le contaron a mi famiglia, a mis hijos pequeños que me habían matado a mí y a mis amigos. Raccontarono alla mia famiglia e ai miei figli piccoli che mi avevano ucciso. In realtà, per miracolo, eravamo riusciti a evitarlo scappando in gommone fino a raggiungere le isole Cayman. Cayman Break, dove, appena sbarcati, fummo subito avvicinati da un corrispondente locale di Radio Martì che ci intervistò. Aveva un corresponsale di Radio Martì allí en las islas y nos entrevistó. Ci chiese i nostri nomi, la nostra provenienza e immediatamente, meno di 24 ore dopo, la mia famiglia venne a sapere che eravamo vivi e che stavamo bene. La vita di chi collabora da La Habana con Radio Martì, così come dei giornalisti indipendenti che dai blog cercano di far sapere al mondo quello che sta veramente accadendo nell'isola caraibica dopo la trasmissione di poteri da Fidel Castro al fratello Raul, è difficilissima. La censura è aumentata da quando il leader Máximo ha passato il testimone al fratello, come ha confermato anche Human Rights Watch nel suo ultimo rapporto sul rispetto dei diritti umani, tra i quali appunto anche la libertà di pensiero. Lo ha detto personalmente a Radio Martì la blogger cubana più famosa al mondo, Yoani Sanchez, dopo essere stata picchiata dai poliziotti in borghese insieme a Claudia Cadelo e Orlando Luis Pardo Lasso, altri due blogger molto noti, lo scorso 6 novembre, mentre si stava recando a una manifestazione contro la violenza nella Caie 23 organizzata da artisti e scrittori. Lo stesso destino sarebbe toccato anche a suo marito Reinaldo Escobar, anch'egli giornalista, pochi giorni dopo. Mi hanno spinta con la faccia sul vetro dell'automobile. Non mollavano mai la presa. Facevano pressione con il ginocchio contro il mio petto. Sentivo un male atroce. Non riuscivo a divincolarmi e anche Orlando era praticamente intrappolato. Non potevamo muoverci. Urlavamo, ma nessuno ci aiutava. Uno mi dava colpi ripetuti sulla testa e sulle mani. Era chiaro che voleva la mia borsa e i documenti che c'erano dentro, ma io non l'ho mai mollata. È stato un atto di una violenza inaudita. Ho temuto che mi avrebbero uccisa. Yoani Sanchez, dal suo blog Generazione Y, al quale si accede digitando il sito www.desdecuba.com, denuncia indirettamente, quindi assai più prepotentemente, il regime, raccontando le difficoltà della vita quotidiana dei cubani. Già vincitrice del premio della stampa spagnola Ortega y Gasset, indicata dal Time come uno dei 100 personaggi più influenti della Terra, Yoani ha avuto anche l'onore di ricevere un attestato di stima dal presidente americano Obama, il primo nero alla Casa Bianca, in risposta alle domande inviategli dalla Sanchez attraverso il suo blog, ha fatto sapere di voler compiere qualsiasi sforzo affinché nell'immediato futuro il governo di Cuba esprima la reale volontà del suo popolo. Raul Castro invece non ha risposto alla domanda della Sanchez e per ritorsione sta impedendo in questi giorni a Yoani di accedere al proprio blog, indispettito dal successo di questa fonte libera di informazioni che nello scorso mese di settembre ha fatto registrare addirittura 14 milioni di entrate solo in lingua spagnola, mentre in novembre su Google il nome Yoani Sanchez è stato cercato 1 milione di volte a settimana come quello di Fidel Castro. Il regime castrista non sembra comunque retrocedere nemmeno di un millimetro dalla sua posizione di bloccare ogni influenza degli intellettuali. Lo aveva ribadito anche Fidel in uno dei suoi ultimi discorsi prima di defilarsi per ragioni di salute. Pero golpearemos con toda la fuerza de nuestra moral el insulto y estaremos dispuestos a responder con todas las armas. Da Miami, però, sono convinti che la destituzione di Castro passi anche attraverso l'informazione. Nel 1990 è nata così Televisión Martí. I suoi 8 notiziari al giorno raggiungono il 37% della popolazione cubana attraverso l'aereo satellitare che vola sino al confine tra la Florida e le acque internazionali senza mai violare lo spazio aereo cubano. Gli studi sono divisi con quello di Radio Martì. Il suo direttore si chiama Gilberto Rosal. L'importanza è stata data perché che il governo attuale di Cuba desde hace 50 años. L'importanza della televisione è chiara. Il governo ufficiale di Cuba da 50 anni a questa parte proibisce la libertà di informazione e diffusione delle notizie. Per questo noi vogliamo dare il nostro contributo affinché il popolo cubano possa ricevere informazioni vere, complete e bilanciate e poi, confrontandole con quelle che vengono trasmesse dai mezzi di informazione ufficiale, possa farsi un'idea di quella che è la verità e di quella che è invece pura propaganda. Noticioso o no. Da Miami però la resistenza americana cubana composta da 1 milione di persone, il 10% dell'intera popolazione rimasta sull'isola, dai primi arrivati quando fu destituita la dittatura di Fulgencio Batista, alle centinaia di migliaia successivamente giunti coi voli della libertà e poi in barca dagli anni 90 sino alla stretta all'immigrazione decisa dall'amministrazione Clinton, la speranza che Radio Martì diventi inutile e che la libera informazione sbarchi finalmente a Cuba è sempre più grande.